24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 40 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 4 maggio. Fase 2, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, fase 2 e fase 2 che comincia anche negli altri paesi. Con una notizia che mi sembra molto interessante, che vorrei condividere subito con te Simone e con i nostri ascoltatori. E la prendiamo dalla prima pagina del Guardian, secondo il quale il governo britannico starebbe pensando a un passaporto sanitario che sarebbe possibile realizzare nei prossimi mesi e che consentirebbe ai cittadini britannici di tornare tranquillamente al lavoro e anche di viaggiare. Sarebbe un passaporto che si fa attraverso un test facciale biometrico e che darebbe appunto la possibilità di usare un certificato digitale. Ci stanno lavorando due diverse aziende, una si chiama Onfido ed è basata appunto in Gran Bretagna. Certo che se la cosa funzionasse, beh, potrebbe essere interessante po' per chissà tutti noi. Come funziona dal punto di vista sanitario, Maria, questa cosa? Allora, secondo quanto scrive il Guardian, dovrebbe essere, diciamo, pronto nei prossimi mesi e intendo che cos'è un tampone, un test serologico, che cos'è? No, con una diciamo un esame facciale biometrico e ovviamente vado sempre a leggere, dovrebbe appunto funzionare con una specie di come una specie di passaporto immunitario diverso, non è quello che abbiamo già visto, il test sul sangue che secondo il Guardian non è accurato e dà spesso al 70% esito il negativo. Famoso sierologico, dovrebbe funzionare in un modo diverso e ci stanno lavorando appunto in Gran Bretagna. Vedremo, poi se ne sapremo di più. Comunque l'ha messa come notizia tutta pagina in apertura il Guardian, mentre sempre sulla fase 2 ci sono due cose un po' più, diciamo, leggere da raccontare. Sì, dai. Una mi colpisce che il parallelismo proprio tra Francia e Italia, addirittura un parallelismo oggi che si vede in due titoli di giornale, perché guardavo La Repubblica che dice in un articolo interno la fase 2 di Conte, che in 3 settimane ora si gioca tutto, e Le Figaro fa un titolo più o meno simile, anche questo all'interno: 4 giorni ad alto rischio del governo, perché ecco, i francesi dovrebbero conoscere la loro fase 2 dall'11 maggio, ma non sono molto convinti che succederà. E infine una notizia questa volta dalla Svezia, potrebbe essere, come dire, un'idea per il futuro. Una coppia svedese ha inventato il ristorante a prova di sicurezza, nel senso che c'è un solo tavolo per 2 persone e il pranzo o la cena viene consegnato in un boxino da personale, ovviamente con la mascherina, e i due, la coppia, cioè la foto anche ovviamente, siedono da soli in un prato senza nessuno attorno. Sicuramente in questo modo il ristorante contagio zero. Allora, Sandra Zampa, buongiorno, sottosegretaria della salute, benvenuta, eccoci. Buongiorno. Senta, di cosa si compone la fase 2 dal punto di vista sanitario? Perché insomma tanto abbiamo parlato della ripartenza delle fabbriche, del tema dei trasporti, del fatto che bisognerà continuare a mantenere il distanziamento, i dispositivi di protezione, e un po' meno abbiamo sentito sul resto della strategia: tamponi, quanti e come, i test sierologici e via dicendo, per avere un'idea un po' più precisa. Allora, cerco di essere sintetica, perché in realtà probabilmente non è sufficientemente noto un decreto che d'altra parte è stato approvato pochi giorni fa. La fase 2 ha un piano, è accompagnata da un piano sanitario, oltre che da misure evidentemente che riguardano la mobilità. Questo piano sanitario prevede l'avvio dei test sierologici. Come è noto, sono test che servono a quantificare la presenza e quindi di popolazione che ha avuto il Covid, ma anche evidentemente, infatti è in mano all'Istat, a fare un campione che ci dica in che condizioni da questo punto di vista, cioè del Covid, di salute è la popolazione italiana, dividendola per genere, per classi di età e anche per sì. professione. Quindi un campione statistico affidabile, insomma. Un campione statistico, i test sierologici sono già stati consegnati e quindi sono già stati distribuiti e sono in distribuzione. Il campione parte da 150.000 persone, si presume che si arriverà a 300.000 persone, lo ha stimato l'Istat ed è di fatto un campionamento statistico. C'è un avvio di tracciamento che avverrà non solo con l'app, che deve ancora partire peraltro, ma che partirà entro maggio, ma con una squadra di persone. Cioè, noi non immaginiamo che il tracciamento sia affidato esclusivamente all'app, anche perché l'app è su base volontaria e quindi dovrà tra l'altro essere scaricata volontariamente da un grandissimo numero, e questo noi speriamo, chiediamo agli italiani di comprendere le ragioni, che avvenga nella misura più larga possibile. Ma ci sarà l'obbligo di tracciamento, è stato dato alle regioni, quindi la capacità di tracciare i contatti di una persona che risulti contagiata. È una misura importantissima, perché se si rintracciano i potenziali contagiati o comunque coloro che sono stati, essendo stati in contatto con un certo contagiato, e la certezza del contagio continuerà a darcela solo e soltanto il tampone, perché non è il test sierologico che fa questo, questa possibilità di rintracciarli significa isolarli, e l'isolamento deve avvenire il più possibile lontano dalla famiglia per evitare contagio con i familiari, quindi dove sono in molte regioni, questo è già stato fatto, di avere luoghi separati dalla casa in cui tenere le persone contagiate che non hanno bisogno di ospedale, oppure se si sta in famiglia bisogna prevedere il test, il tampone anche per i familiari, altra cosa che in qualche regione è avvenuta e in altre regioni non è avvenuta, ma che si è rivelata molto importante. Aggiungo a questo la capacità di intervenire precocissimamente sui luoghi di eventuali focolai, l'avvio della realizzazione di Covid Hospital, che non è neanche bellissimo quando lo dici, è una cosa che diciamo dal punto di vista anche dell'espressione suona come una cosa insomma non piacevolissima, ma in realtà il Covid Hospital significa semplicemente che tu hai un luogo separato. Questo perché? Perché noi dobbiamo evitare che il contagio diventi un focolaio in un luogo. Ci sono state molte infezioni negli ospedali, ci sono state infezioni molto larghe nell'RSA, e questo va evitato. Quindi ci devono essere luoghi dove si è già pronti. A questo che cosa abbiamo accompagnato? Abbiamo accompagnato un piano che è stato concordato e consegnato alle regioni, ma concordato con le regioni, che prevede tra l'altro la costruzione di una cabina di regia dove siederanno rappresentanti del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle regioni, quindi un loro rappresentante, perché è stato messo a punto un algoritmo che tiene conto di una serie di elementi per cui le regioni insieme al Ministero della Sanità devono essere in grado settimanalmente di monitorare come stanno andando le cose e di conseguenza, sulla base dell'esito del monitoraggio, di prendere decisioni o in misura di un ulteriore allargamento sì. o al contrario di restrizioni immediate, chiusure immediate. Maria, prego. Sottosegretario, mi scusi, mi sembra che stiamo andando un po' tutte, almeno così in Europa pare, verso l'ipotesi di un passaporto sanitario. Se ne è parlato qualche giorno fa, perché è l'idea alla quale stanno lavorando alcuni paesi per cercare di tenere in piedi il loro turismo, penso per esempio alla Croazia, ma sì, anche alla la Spagna. Grecia. E anche la Grecia, infatti. E stamattina citavo il titolo di apertura del Guardian, che parla di un altro genere di passaporto della salute che dovrebbe consentire questo, diciamo, soprattutto ai lavoratori britannici di muoversi più rapidamente, e che è allo studio si tratterebbe di uno studio che provvede a un certificato digitale basato sulla biometria facciale. Adesso non saprei bene come definirla. Non ho capito benissimo. Ecco, io, perché è una, come dire, un articolo un po' lungo e ho cercato di sintetizzarlo, però poi probabilmente voi studierete meglio l'ipotesi che è in corso in Gran Bretagna. Però in generale voi pensate che il passaporto sanitario comunque venga realizzato, è il prossimo step? Anche per aiutare il nostro turismo, oltre che il turismo degli altri paesi. È evidente che dovremo garantire che le persone che si muovono siano persone, diciamo, che lo possano fare in sicurezza, soprattutto per gli altri. Che cosa però dentro questi passaporti si intenda mettere non mi è chiarissimo, perché evidentemente nel passaporto tu puoi mettere il fatto che ti è stato fatto un tampone, tu sei negativo. Se sei negativo, evidentemente ti puoi tranquillamente recare in un altro luogo sapendo che non hai l'obbligo della quarantena, perché oggi noi invece siamo fermi al fatto che c'è la quarantena. Tu arrivi e ti metti in quarantena. Noi pensiamo che l'app, per esempio, possa diventare anche lei uno strumento importante, perché oggi la immaginiamo esclusivamente come strumento di rintraccio, ma l'app potrebbe diventare uno straordinario strumento di intelligenza artificiale che va oltre al rintracciamento, quindi al rintraccio che attualmente è quello previsto, l'unica cosa prevista. È uno sviluppo ulteriore di uno strumento che tu puoi aggiornare a una velocità, per esempio supersonica, per esempio avendoci il certificato, scaricando il certificato medico direttamente sul tuo telefonino. Bisogna decidere insieme, e penso che l'Europa debba farlo insieme, perché noi abbiamo un problema, esattamente lo stesso problema che si è posto all'inizio di tutta questa vicenda. L'Europa ha, diciamo, sottostimato e non sufficientemente valutato la gravità di quello che stava arrivando, e non si sono assunte misure insieme, soltanto quando ormai stava esplodendo dappertutto l'epidemia. Finalmente l'Europa ha cominciato a fare un coordinamento delle misure. Ma è evidente che laddove, come per fortuna in Europa, noi siamo nella possibilità di muoverci liberamente, siamo Schengen e quindi ci possiamo muovere da un paese all'altro, bisognerà fare in modo che le persone che si muovano non siano portatrici di contagio. Voglio ricordare che il contagiato numero uno è stato contagiato da un tedesco. Quindi certamente il governo italiano dovrà prendere in considerazione questa opportunità, possibilità del cosiddetto passaporto, ma noi riteniamo che, e sono certa che il ministro, così come ha fin dall'inizio sollecitato un intervento europeo più coordinato a livello europeo, che questo vada fatto a livello europeo, quantomeno a livello europeo. Sulla app, sottosegretaria, allora si è detto che arriverà, innanzitutto se ci può dare un'idea di data, perché lei ci ha detto adesso entro maggio, sapevamo a metà maggio, insomma su questo non abbiamo chiarezza. Il secondo elemento è questo, l'app ha un senso, dicono tutti, non è che ce lo inventiamo noi, se c'è una strategia massiccia di tamponi. Ora, noi stiamo sicuramente facendo tanti tamponi, ma in maniera molto diseguale sul territorio italiano, dalla Lombardia che ne fa 20.000 alla Campania che ovviamente ne fa molti meno. Dunque, le due cose come si connettono? È sempre collegato a questo. Dopo il tracing, cioè una volta che hai stabilito che io ho avuto un contatto, seppur fugace, con magari un affetto stabile che è affetto da Covid-19, che cosa succede? Cosa succede dopo? Mi fate il tampone oppure no? Guardi, il tampone va fatto. Il governo lo ha detto, ha anche emanato un'ulteriore circolare, e questa circolare prevede proprio che gli affetti che siano, diciamo, di una famiglia o che siano affetti stabili, ma insomma, se tu hai la certezza di essere entrato in contatto con un contagiato, ti deve essere fatto il tampone. Perché lo dice, diciamo, l'ho appena spiegato, perché si ritiene che se sei stato in contatto, tra l'altro si parla di 15 minuti, che sarebbe il tempo in cui avviene il contagio, ecco, dentro una famiglia evidentemente si sta insieme molto più di 15 minuti, quindi se sei stato, convivi con una persona che risulta contagiata, ti deve essere fatto il tampone. In questo momento ho sentito ieri sera il commissario Arcuri che diceva di un numero straordinario di tamponi che sono stati consegnati, anche questi, alle regioni. È vero che noi siamo in testa a tutti i paesi europei per numero di tamponi per milione di abitanti, e guardi, questo è un dato pubblico perché il World Meter, che lo pubblica e lo aggiorna quotidianamente, l'Italia ha fatto 32.735 tamponi per milione di abitanti, mentre la Germania era 30.400 tamponi. È certo che ci sono regioni dove le cose funzionano più rapidamente e regioni dove le cose funzionano meno. Questo naturalmente anche in ragione di una diversa, diciamo, gravità della diffusione del contagio. Lei ha citato la Campania e fa il confronto con la Lombardia. È evidente che sono situazioni lontanissime in termini di numeri, ma questo non significa che potenzialmente non ci sia diciamo lo stesso pericolo di contagio, perché noi abbiamo sperimentato quanto si diffonde rapidamente questo virus e quanto il contagio vada rapidamente da una persona all'altra, perché la vicenda di Codogno, nel suo, diciamo, persino anche studiandola da sola come un micro esperienza, ci ha dimostrato che dal paziente 1 si arriva a un intero città, paese, comunità contagiata. Sì, sottosegretario, dobbiamo chiudere molto rapidamente. Metà maggio o entro maggio sta questa app? Entro maggio, guardi, non mi sento di dire metà maggio. Entro maggio. Mi ha detto il commissario Arcuri. E così immagino sarà. Voglio ricordarle quello che le ho appena detto. Il rintracciamento continua a essere affidato alle persone. Quindi ci saranno squadre che sono destinate a fare l'intervista a ogni contagiato. Un contagiato si rivolge al suo medico e da quel momento deve rispondere, ovviamente andando a quel punto a memoria, il più possibile dare la possibilità di ricostruire i suoi contatti. Grazie Sandra. Poi bisognerà vedere come sarà nella concretezza questo incontro tra il personale che si informa e il contagiato. Questo non mi è ancora chiaro, ma insomma non c'è il tempo adesso per approfondire, lo faremo un'altra volta. Grazie Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per essere stata con noi. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, l'800-24-00-24 per intervenire in diretta. Tra un attimo, cara Maria, con la ministra del lavoro Catalfo, tra poco. Mattino. Nunzia Catalfo, ministra del lavoro e delle politiche sociali, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno ministro. Maria Latella. Eccoci qua, Maria, prego. Senta, comincio subito col chiederle cosa pensa delle prime tre misure che il governo dovrebbe adottare secondo il presidente di Confindustria Bonomi, il quale chiede che si sblocchino tutte le opere pubbliche già finanziate, che gli incentivi di Industria 4.0 e i pagamenti dei debiti che lo Stato deve alle imprese si trasferiscono in liquidità immediata, cioè con una detrazione sulle imposte che si pagano quest'anno. È d'accordo con le richieste del presidente di Confindustria Bonomi? Sì, certo. Ovviamente in questo momento noi dobbiamo avere una doppia azione, cioè da una parte aiutare e sostenere, come abbiamo fatto nei nostri decreti, nel nostro decreto precedente, e aiutare e sostenere, e anche nel prossimo, aiutare e sostenere le imprese e le famiglie italiane anche con strumenti di sostegno quali cassa integrazione o altri che di cui penso parleremo sì, presto, sì. E dall'altra parte ovviamente sbloccare gli investimenti, accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, quindi sicuramente sono delle proposte che insomma hanno il loro valore. Senta Ministra, è vero che mancano 7 miliardi per la cassa integrazione? Allora noi abbiamo avuto un confronto sul, come sapete, come tutti sanno, con il Ministero dell'Economia e della Finanza per andare a quantificare la spesa. Sulla cassa integrazione in tutto ci saranno 16 miliardi che verranno appunto distribuite a seconda del tipo di ammortizzatore sociale, e questo sarà per finanziare ulteriori 9 settimane di cui potranno appunto usufruire tutte le imprese italiane. Ovviamente il tiraggio sarà sicuramente inferiore rispetto a prima, in quanto adesso stiamo iniziando la fase 2, quindi a riaprire alcune attività, ci sarà in modo cadenzato, però si rinizia la riapertura, per cui ci sarà minore necessità di cassa. Quindi nel decreto in arrivo saranno, nel decreto aprile, che ormai è un decreto maggio, sarà coperta la cassa integrazione. Quei 7 miliardi non mancano, si conferma. Sì, sì. Ok, Maria, prego. Ministro, l'altro giorno Romano Prodi, che è stato a suo tempo presidente dell'IRI, ha osservato come l'epidemia di coronavirus ha rimesso in gioco il ruolo dello Stato, e ha detto: serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese. Abbiamo visto in Francia, ma anche in Germania, soprattutto in Germania, il massiccio intervento dello Stato, cito il caso degli aiuti a Lufthansa. Lei pensa che serva più Stato nelle imprese? No, io penso che servano gli aiuti necessari. Adesso se io da una parte mi sto occupando sostenere i lavoratori, ma quando si parla di cassa integrazione, comunque non è solo un sostegno ai lavoratori, ma un sostegno anche alle imprese che vengono sgravate comunque di uno dei maggiori costi che ha l'impresa, che è quello del costo del lavoro. Dall'altra ovviamente devono esserci necessariamente degli altri interventi, che possono essere interventi che riguardano appunto gli investimenti, ma che possono essere appunto interventi immediati che aiutino alla liquidità delle imprese. Noi stiamo anche prevedendo un finanziamento dello Stato, quindi un fondo perduto per le imprese, quindi per aiutarle e sostenerle nella fase di ripresa delle attività. Quindi non c'è un solo intervento, ma deve essere un mix di interventi, quindi un ventaglio di interventi che sostengano da una parte le famiglie e i lavoratori italiani, perché ovviamente tutto si basa, la nostra economia si basa appunto anche sui consumi, e quindi sostenere il reddito è importante anche per questo, e dall'altra sostenere la liquidità delle imprese e ovviamente anche gli investimenti, in modo tale che si garantisca la ripresa. Mi permetta di restare, Ministra, sul tema della cassa integrazione. Sciolto quel nodo che ci ha detto, ossia appunto che le risorse ci saranno nel prossimo decreto, c'è un tema che ha a che fare con le regioni. I ritardi con i quali le regioni stanno trasmettendo la richiesta di cassa integrazione stanno creando dei problemi. C'è modo di sveltire, stanno creando dei problemi. Molta gente non la sta ricevendo, molto semplicemente. C'è un modo per sveltire tutto questo? C'è un modo per magari far sì che lo Stato accentri su di sé, almeno in questa fase, questo potere, oppure no? Beh, diciamo che allora, il pagamento della cassa integrazione ordinaria e del fondo di integrazione salariale dell'assegno ordinario è stato più veloce perché diretto direttamente dall'INPS, quindi con una domanda effettuata direttamente all'INPS. Con la cassa in deroga che va a tutelare le imprese da 0 a 5 dipendenti, insomma tutti coloro i quali non sono coperti da ammortizzatori sociali, è stato importante l'intervento delle regioni. Ovviamente è una procedura un po' più complessa rispetto a quella di gestione della cassa integrazione ordinaria e degli altri ammortizzatori sociali, in quanto c'è un passaggio in più. Noi abbiamo cercato di semplificare tutte le procedure, le regioni so che comunque superato insomma le prime difficoltà adesso stanno trasmettendo tutto. Io confido che iniziata la procedura e quindi capito un po' come funziona tutto e agevolato anche da tutto questo dall'anticipazione che appunto verrà fatta dalle banche grazie al protocollo che abbiamo sottoscritto e anche dalle Poste Italiane, quindi chi ha un conto corrente postale potrà anche chiedere l'anticipazione sul conto corrente postale, quindi questo dovrebbe semplificare e accelerare. Ovviamente anche per il prossimo decreto cercheremo di essere molto attenti e cercare di semplificare ancora di più, anche perché abbiamo già semplificato anche il famoso modello SR41, che era un modello complesso che riguardava appunto la trasmissione dei dati dei lavoratori e tutto. Noi l'abbiamo semplificato moltissimo rispetto a come era prima e ovviamente noi ci muoviamo in un sistema che io non potevo informare in un attimo perché questo avrebbe allungato moltissimi tempi, perché avremmo dovuto reinserire nuove procedure nuove e quindi questo avrebbe complicato le cose. Mi muovo in un sistema di ammortizzatori sociali molto frammentato, molto complesso. E ovviamente questo richiede una riforma. A proposito di riforme, Ministro, senta, io vorrei capire che cosa succederà dello smart working, perché secondo i sondaggi il 52% di chi l'ha sperimentato, dei lavoratori che l'hanno sperimentato, vorrebbe continuare. Il segretario della CGIL Landini ha detto che bisognerà adattare la contrattazione ai nuovi modi di lavorare. Avete già un'idea di come potrà funzionare questa nuova contrattazione con lo smart working? In che cosa potrebbe consistere? Ovviamente lo smart working si è dimostrato innanzitutto uno strumento importante, quindi ci ha aiutato molto a gestire la fase di chiusura questa fase 2 e quindi diventa anche, se vogliamo, una modalità di lavoro che prima veniva utilizzata, ma dai dati che io vedo attraverso appunto le comunicazioni che arrivano al Ministro del Lavoro, adesso si è incrementata moltissimo e nella fase 2 si può ovviamente aiutare perché molti lavoratori possono andare in smart working. Certamente un maggior utilizzo, un così grande utilizzo magari richiede una più attenta visione dello strumento. Nei prossimi giorni sicuramente incontrerò anche le parti sociali proprio per parlare di questo tema, che è un tema al di là dell'epidemia, ci ha aiutato nel gestire l'epidemia, può essere implementato ma ovviamente anche regolamentato meglio. Meglio regolamentato, dice lei. Ascolti, Ministro, nei prossimi provvedimenti ci dovrà essere anche questo reddito di emergenza per il quale lei molto si sta spendendo. Ci dà un'idea di massima di come dovrebbe funzionare? Sì, perché molto si è polemizzato anche sul va anche a chi lavora in nero, eccetera, eccetera. Prego. Sì, ovviamente il reddito di emergenza viene da me, ma nel senso che io, come tutti gli altri che compongono il governo, abbiamo raccolto un grido di emergenza che ci hanno rivolto i sindaci e i comuni quando, se ricordate, è iniziata l'epidemia qualche settimana dopo, in quanto sono aumentate in modo consistente le famiglie in difficoltà e quindi che avevano proprio mancanza di beni di prima necessità, appunto quali cibo, insomma, che è importantissimo, no? per la sopravvivenza. Questo grido di emergenza, questo grido d'allarme da parte dell'ANCI poi si è tradotto immediatamente, per fortuna, con un provvedimento del governo che ha erogato ai comuni una cifra delle risorse per poter gestire appunto l'emergenza, e così si è provveduto. Ovviamente per dare un sostegno a queste famiglie a breve termine, perché spero che insomma riusciamo con la gestione della fase 2, la gestione di riapertura e tutte le precauzioni che stiamo adottando a poter tornare in una situazione di normalità tra qualche mese, per un paio di mesi, quindi una misura assolutamente a tempo, per un paio di mesi sostenere queste famiglie che si sono trovate in questa difficoltà, con uno strumento che gli dia la possibilità di appunto portare il cibo in tavola e che duri appunto un paio di mesi e che venga comunque erogato attraverso una carta, quindi così sappiamo a chi arriva e contemporaneamente sosteniamo le famiglie. Ho capito, Ministro. Quindi lei insiste, dice si tratta di un paio di mesi, certo, è un provvedimento temporaneo, perché uno dei timori è che non andiamo a creare una nuova economia, ma creiamo un'economia di assistenza che in altri paesi, penso alla Gran Bretagna, ha fatto sì che ci siano tre generazioni, quattro generazioni, per esempio nel Galles, di persone che sono nel welfare. Io però ho un'altra domanda. Tutti questi soldi da dove li prendiamo? Li facciamo a debito? Io guardo anche alle cifre che sono state finora erogate ai governi nazionali e vedo che i paesi che hanno un debito inferiore al nostro, per esempio la Germania, ha già avuto il 52% di aiuti sul totale di quanto è stato erogato dall'Unione Europea. Invece Francia e Italia, che hanno un debito più pesante, hanno avuto soltanto il 17%. Quindi noi tutti questi soldi li dobbiamo recuperare dalle erogazioni dell'Unione Europea con debito ulteriore che graverà sulle nostre spalle, o in che formula secondo lei? Beh, questa è una domanda un po' più complessa, diciamo, più da Ministro dell'Economia, però cercherò di rispondere. Lei ha ragione. Quindi il Ministro dell'Economia se ne sta occupando in modo costante di tutto questo. In questo momento lo stiamo facendo a debito, però la questione importante è quella di sostenere l'economia, cioè noi dobbiamo fare in modo che questa emergenza sanitaria non porti il Paese in un'emergenza economica, e quindi tutti gli strumenti che noi stiamo mettendo in atto, dalla liquidità alle imprese, al sostegno ai lavoratori e alle famiglie italiane, sono strumenti necessari e importanti affinché tutto questo non sfoci in una crisi economica. Quindi poi ovviamente il Ministro dell'Economia e il Presidente Conte hanno continui rapporti con l'Europa e sappiamo insomma che stanno portando avanti in modo egregio le istanze del nostro Paese, È ovvio che serve un aiuto importante da parte dell'Unione Europea, perché insomma questa è una questione che non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea, ed è giusto che ci sia una coesione in questo senso. Ministra, ancora sul tema delle erogazioni, tanto della cassa integrazione quanto dei bonus, le cito qualche ascoltatore, ci ha appena scritto Franco a 24 mattino che ho la radio 24.it, controllato anche questa mattina, i famosi 600 euro non sono arrivati. Un altro ascoltatore, Walid dall'Emilia Romagna, che ci dice allora, da una parte il governo accusa le regioni per il ritardo nella richiesta di cassa integrazione, la regione dice che è colpa del governo, fatto sta, dice, io sto qua e i soldi della cassa ancora non mi sono arrivati e, insomma, devo comprare da mangiare. Insomma, qua c'è un tema che forse, non so, magari avete caricato l'INPS di un lavoro eccessivo rispetto alle risorse che ha e alle capacità che ha? Ma noi ci ritroviamo in una situazione che è davvero straordinaria. Ieri abbiamo avuto appunto questi incontri tecnici anche con l'INPS, quello che è stato erogato è comunque elaborato. No, è vero, Ministra, mi scusi se la interrompo prima, già all'inizio della risposta, però mi perdoni, però è vero anche che in paesi come la Germania hanno iniziato a versare i quattrini nei conti correnti direttamente, insomma, dicendo guarda, non voglio nemmeno sapere, ti metto questi soldi perché devo sostenere il tuo reddito in una fase così complicata, forse poteva far così da subito. La cassa integrazione è uno strumento che viene erogato, la cassa integrazione ha delle sue regole, e andare a cambiare lo strumento di cassa integrazione in questa situazione di emergenza avrebbe richiesto mesi, quindi attraverso lo strumento di cassa integrazione è sempre stato gestito dall'INPS, quindi cambiare in itinere le regole, le procedure sarebbe stato ancora più complesso. Poi dico, si può fare sempre meglio e quindi cercheremo di semplificare quanto più possibile, però quello è il concetto che volevo un po' spiegare anche agli ascoltatori, a voi, è che normalmente non c'è questa erogazione. Ieri ci confrontavamo appunto con i tecnici dell'INPS sui vari temi per il prossimo decreto, e in questi mesi, quindi marzo e aprile, sono arrivate un ammontare di richieste, di domande che si stanno appunto lavorando e man mano accreditando poi per il sostegno superiore all'intero anno della crisi del 2008-2009, cioè. Quindi l'ammontare di domande è veramente importante, parliamo di milioni e milioni e milioni di lavoratori e di autonomi, perché non dimentichiamo che c'è anche l'indennizzo. Per ciò che riguarda l'indennizzo, il pagamento è stato fatto già per 3 milioni e 400 mila lavoratori e ci sono ancora alcuni che aspettano il pagamento, in alcuni casi stanno effettuando dei controlli per vedere se c'erano i requisiti richiesti, per altri c'era un problema riguardo all'IBAN che era stato insomma inserito ed era errato, e quindi si sta richiedendo di nuovo la correzione insomma dell'IBAN, ma il pagamento per la maggior parte dei casi è stato effettuato, parliamo di 3,4 milioni di persone a cui è arrivato l'indennizzo, e che per il prossimo decreto, quindi per il prossimo indennizzo, appunto per i prossimi mesi, non dovrà essere poi necessario per le stesse persone rifare la domanda, quindi la procedura si è fatta una volta e poi le persone avranno, i cittadini avranno l'indennizzo automaticamente ricaricato. Senta, Ministro, mi rendo conto che lei possa rispondermi, è una domanda da porre al Ministro dell'Economia, però a me pare che la sostanza è che tutti voi nel Consiglio dei Ministri alla fine lì arriverete, la sostanza è che potrebbero crearsi delle diseguaglianze forti, non soltanto all'interno dei paesi, no? Tra chi può contare su uno stipendio fisso, perché è un dipendente statale, un dipendente di un'azienda, e quelli, i precari che non ce l'hanno, ma la diseguaglianza potrebbe crearsi, come citavo prima con i dati, tra quei paesi che hanno un debito accettabile, quindi un'economia più solida, e che quindi potranno chiedere all'Europa ancora più investimenti, e noi, ai quali verrà detto no, vi diamo solo il 17%, come è stato fatto a noi e alla Francia, perché la vostra situazione non è solida, perché le vostre banche hanno un sacco di titoli di Stato in pancia, e quindi devono tenere conto anche di questo. Quindi la sua sensazione è che andremo ad affrontare un problema di diseguaglianze tra gli Stati, tra quelli europei che sono più solidi e quelli che lo sono meno, e questo che cosa comporterà poi nel far arrivare ai disoccupati di ciascuno Stato un metodo per sopravvivere, un mezzo per sopravvivere? C'è comunque un dibattito in Europa riguardo all'assicurazione per i disoccupati, piuttosto che questo strumento che si chiama SURE, per sostenere i lavoratori che appunto sono in difficoltà, quindi in cassa integrazione o altro. So che ci sono appunto altri temi che stanno affrontando sia il Presidente del Consiglio che il Ministro dell'economia, che riguardano appunto l'aiuto a tutti gli stati, indipendentemente appunto dal indebitamento, dalla solidità. E dalla solidità. Io credo che questo tema verrà, appunto, lo ripeto, portato con forza in Europa, come da Gualtieri. Allora, guardi, ministra, la ringrazio. Tra l'altro, appunto, insomma, era un tema forse più anche qua, come diceva Maria, più da ministro dell'economia. Dobbiamo veramente chiudere, tra l'altro. Grazie, Nunzia Catalfo, ministro del lavoro, per essere stata con noi. Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. Domani. Ciao. Ciao a tutti.